una prima, hai usato quattro termini differenti nell'esposizione: il libro di Salmi, il Salterio e poi il Breviario e il libro di Ove. Sì. Due di questi mi sembrano sinonimi, invece sugli altri c'è una questione. Ottima domanda. Se ci chiarisci questa cosa. Sì, quindi Salterio è il nome collettivo perché Psalterium mi pare che sia lo strumento musicale, no? Quello famoso con cui si accompagnano. Quindi dire Salterio, il libro dei Salmi è una prospettiva più biblica. Salterio ne evidenzia più l'aspetto di preghiera, ma è la stessa cosa. È la stessa cosa. Da 1 a 150. Il nome è molto indicativo, no? Della visione. Quelli che hanno riflettuto sulla riforma liturgica hanno osservato l'evoluzione nella concezione della preghiera con i salmi, guardando come veniva chiamata. I monaci, Benedetto, la chiamavano Opus Dei. È molto interessante questo, perché il monaco vive davanti a Dio. Opera di Dio, opera dell'uomo, una giornata scandita. Questo breviario e lo chiamavano così al concilio, è già la forma, diciamo, quella atrofizzata, no? È un libro dove c'è tutto, perché serve a uno solo. Questo è stato il destino dei libri liturgici. Nell'antichità, dentro la messa, c'erano 5-6 libri, uno per ogni ministero. A un certo punto, siccome il ministro era uno solo, tutti questi libri sono diventati il messale, tanto serviva solo a lui, no? Il breviario ha subito questo destino, quindi non ci sono più le antifone, l'innario, libri che nei monasteri servivano per le altre parti. Quindi quando io dico breviario faccio riferimento all'idea che nella Chiesa ci sono alcuni, pochi, incaricati a pregare per tutti. Non è una dinamica, come dire, da disprezzarsi, no? È l'intercessione. Quindi loro che avevano una vocazione particolare, nella Chiesa avevano il compito di pregare, diciamo, la liturgia delle ore, come la chiamiamo noi oggi, per tutti. La liturgia delle ore dice due cose. Liturgia, cioè non è un libro, è un rito. La realtà non è proprio così. Se noi andiamo a una celebrazione della liturgia delle ore, spesso sono tante persone con un libro in mano che vanno alla velocità del fulmine, no? Sti salmi, vabbè, una giaculatoria, no? Come il rosario, ci può anche stare. Liturgia delle ore, uno sguardo sul tempo, recuperato da 7 volte io ti lodo. Quindi la liturgia delle ore che cosa fa? Ci offre un rito ecclesiale, consegnato a tutto il popolo di Dio, c'è scritto nell'introduzione la liturgia delle ore, che scandisce il tempo, cioè ci colloca nel tempo con uno sguardo che non è quello del mondo, ma è quello di Dio. Anche questa è una cosa interessante per noi. Quindi questa preghiera non è non vuole essere un obbligo, perché io nella giornata devo temperare. Era così. Un'altra cosa che è cambiata si chiama la veritas orarum. Allora, un prete stressato che cosa faceva? Siccome sapeva già che il pomeriggio era impegnato, alle 6 del mattino diceva tutte le ore fino a quella della notte, perché era obbligato, cioè doveva. Del resto la veglia pasquale si celebrava alle 9 del mattino, cioè si era perso il nesso con il tempo vero. Quindi liturgia, un rito partecipato da tutti, delle ore, uno sguardo, una santificazione, se vogliamo, del tempo che l'uomo fa davanti a Dio. Quindi questo piccolo, diciamo, cambiamento terminologico porta con sé un grandissimo cambiamento di prospettiva. Grandissimo. Quindi è stato diciamo una piccola ricaduta di una grandissima riflessione invece teologica. Poi questa gente che lavorava in questi gruppi di lavoro erano tutti teologi valenti, e io ho letto questi report, discutevano moltissimo, anche su cose minuscole. Poi ciascuno andava a cercare, quindi un lavoro veramente, no? Quindi si sono posti tantissime domande sulla natura di questa preghiera e molte di queste riflessioni ancora oggi potrebbero aiutarci ad andare avanti, no? Perché soltanto una piccola parte è stata concretizzata. Grazie. Grazie. Però ci hai detto tante di quelle cose che... Sì, no, poi bisogna ruminarsele. Io me le sono persi, me le sono persi 3-4. No. Dico adesso in questa risposta hai detto un sacco di robe che... È perché è un mondo sì, dove magari voi non siete così... Ma guardate, questa cosa della riforma liturgica comunque è un po' sconosciuta. Cioè, si sa che il Concilio Vaticano II ha riformato la liturgia, più o meno si sa, poi adesso si discute molto, no? Perché... negli ultimi, diciamo, 10-15 anni è tornata un po' questa nostalgia per il rito prima del concilio, no? Però su cosa fosse veramente la riforma liturgica, io l'ho capito quando sono andata a leggere come lavoravano, perché non è una, diciamo, non è molto conosciuta come... Voi immaginatevi che tutti i libri che noi utilizziamo, tutti, sapete i libri dei sacramenti, per esempio, no? Battesimo, penitenza, matrimonio, la celebrazione delle esequie, la liturgia delle ore, il benedizionale, il messale, tutti i libri sono stati rifatti dopo il concilio, recuperando la sensibilità biblica, lo studio delle fonti, lo studio della storia della liturgia, perché con i secoli questa conoscenza non so come dire, connaturale, no? I padri della Chiesa nel IV secolo non avevano bisogno di dire che la scrittura era importante, non lo dicevano, perché lo vivevano tutti i giorni, no? Poi con la storia questi significati si sono smarriti. E quindi in quel, diciamo, nei primi decenni del Novecento, negli anni 40-50, si è ripreso a studiare le consuetudini antiche, tutta la tradizione fino a noi, e si è cercato di fare dei riti che in parte tenessero quello da cui si veniva e in parte andassero a recuperare soprattutto una diversa visione di Chiesa. Nel Concilio Vaticano II c'è un documento fondamentale che si chiama Lumen Gentium, che è la parola del Concilio sulla Chiesa. C'è un documento fondamentale che si chiama Dei Verbum, che è la parola della Chiesa sulla parola di Dio. Non sono dei contenuti radicalmente nuovi, no. Però vanno a recuperare dei significati che si erano sbarriti. A un certo punto c'era chi diceva che la parola del Papa, era più importante della parola di Dio. Capite che si era un po' perso, diciamo, il baricentro, no? Ecco, quindi il Concilio Vaticano II, a modo suo, come è stato capace, quindi sicuramente non in modo perfetto, nel campo liturgico ha rifatto i riti. Tutti i libri che noi vediamo oggi sono stati fatti, anzi, anche a volte rifatti, rivisti. Il Messale, per esempio, è alla terza. Quindi, perché a un certo punto ci si rende conto che pur nella tradizione c'è bisogno di adattare ai tempi. Quindi è una dinamica pochissimo conosciuta, no? Mi sembrava così anche uno spunto interessante per voi che siete appassionati, no, della parola di Dio, così per fare una piccola finestrella. Va bene. Io volevo ancora chiedere una cosa. Io non sono un'esperta in questi campi, però mi è successo parecchie volte di trovare qualche difficoltà leggendo e pregando un salmo, perché mi sembrava di riscontrare una difficoltà, una differenza di vedute nei confronti di Dio. Cioè, mi sembra che il popolo ebraico avesse un'idea di Dio un po' diversa da quella che poi Gesù ha prospettato. E quindi emerge nel Salmo alle volte un atteggiamento o una visione di Dio che non corrisponde a quella che a me sembra di aver ricevuto dal cristianesimo. Ottima domanda. E quindi questo alle volte ci lascia un po' qualche difficoltà. Allora sì, adesso io sono andata veloce, quel discorso se il salmo geme, gemete, eccetera, eccetera, dovrebbe anche aiutarci in questa fatica di entrare nel linguaggio dei salmi, che è un linguaggio difficile. Il padre Gélinot, che è un padre gesuita che si è occupato moltissimo di liturgia, era al concilio, ha scritto anche molta musica, era interessato ai salmi perché sono musicali nel loro testo, no? Diceva che il salmo è come una noce, cioè a vederlo così è ruvido, è inaccessibile, bisogna riuscire a, diciamo, a penetrare, no? Certamente la consuetudine con il testo dei salmi può aiutare, perché quando uno li frequenta moltissimo, poi questo linguaggio, diciamo, diventa più familiare. Quindi certamente una delle ragioni per cui noi siamo in difficoltà è anche perché li conosciamo poco e li frequentiamo poco. Un'altra chiave, che è quella che cercavo un po' di dire, è quello di provare a mettersi nei panni di chi sta pregando, cioè risalire alla situazione esistenziale che ha generato il Salmo. Il Cardinale Martini, che è stato un grande studioso, dice: nei Salmi i Salmi sono radicali in un modo pazzesco, sono violentissimi, o è bianco o è nero, non ci sono mezze misure. Ti tirano una, cioè sono tremendi, no? Ecco, questa è proprio la loro caratteristica, perché esprimono una preghiera così come sgorga, senza, cioè, io sono arrabbiata nera, scrivo di getto una mail in cui scrivo le peggiori cose, aspetto un attimo, va, poi la rileggo e dico: vabbè, queste tre parolacce le tolgo. Vabbè, ecco, cioè il salmo è quella roba lì, cioè quella roba che esce da una situazione esistenziale spesso difficile, senza filtri. Ecco, quindi certamente diciamo è faticosa, però diciamo però ha anche una sua fecondità, finisco. Questa osservazione che ha fatto su Dio, che non sembra lo stesso, nel secondo secolo era un'eresia, c'era uno chiamato Marcione, che diceva che il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento erano due libri diversi, che parlavano di due dei diversi. È impossibile che il Dio di Gesù Cristo, il Dio della misericordia, sia quello là. No, no, no, no. Ecco, adesso faccio, banalizzo, no? E quindi anche la fatica per noi, a parte i salmi, no? Di entrare nel mondo dell'Antico Testamento è reale, a mio parere, di nuovo per una scarsa frequentazione, una scarsa conoscenza dell'ebraismo e anche una non sufficiente lettura proprio della Bibbia. Se uno lo legge molto l'Antico Testamento, Dio ha molti volti, e vi dicevo che il suo volto principale è questo: Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni. Questo è il Dio dell'Antico Testamento, nella sua identità più profonda. Poi c'è un po' di tutto. Allora, facciamo così, trascuriamo il lavoro di gruppo perché il tempo è già passato. Allora, vorrei dire una parola, siccome me la sono preparata perché mi aspettavo questa domanda, è frequente, no? Vorrei dire una parola su questi cosiddetti salmi imprecatori, che sono, diciamo, rispetto a quello che lei diceva, proprio il culmine, no? Cioè, i salmi ci mettono in difficoltà, hanno un linguaggio che non ci è familiare, ci presentano un Dio, boh, che ci chiediamo se Gesù Cristo l'avrebbe, diciamo, apprezzato, e a volte dicono delle robe veramente tremende. Ti faccio un esempio duro, un esempio duro. Allora, Salmo 109. I suoi giorni siano accorciati, la sua carica la prenda un altro, i suoi figli diventino orfani e la sua moglie vedova. I suoi figli erranti erreranno e supplicheranno, mendicheranno lontano dalla loro casa in rovina. Un creditore sequestri tutti i suoi beni. Stranieri saccheggino il frutto della sua fatica. Il suo avvenire sia sradicato. Nella generazione che viene il loro nome sia cancellato, ok? E poi dopo dice, infatti non si è ricordato di agire con amore, ha perseguitato l'uomo umiliato e il misero e il cuore affranto per mettergli a morte, ha amato la maledizione ed essa è venuta a lui. Non prova piacere per la benedizione, due strade, no? Le vediamo dopo. Ha rivestito la maledizione come sua tunica ed essa è entrata come acqua nel suo seno. Scusate, dico una parolaccia, scusate. Uno stronzo questo qui proprio, no? Un delinquente che ha maltrattato i poveri. Ecco, quindi noi dentro il libro dei Salmi troviamo dei testi così. Allora, si chiamano Salmi imprecatori, sono tre salmi più alcuni versetti, no? Al Concilio Vaticano II c'è stata una lunghissima discussione se toglierli o lasciarli. E alla fine li hanno tolti per intervento di Paolo VI, perché nella tradizione ecclesiale mai un libro della Bibbia, il Salterio, era stato decurtato, mai. E tutto il gruppo che lavorava sulla liturgia delle ore era d'accordo di mantenerli. Hanno fatto un sondaggio, perché ogni tanto chiedevano l'opinione dei vescovi, no? Prima di procedere nel lavoro, perché voleva essere una cosa collegiale. Quindi la maggioranza dei vescovi era d'accordo. Nel 67 c'è stato un sinodo sulla parola di Dio, loro sono stati consultati, la maggioranza dei vescovi era d'accordo nel tenerli. Perché nella tradizione della Chiesa la parola di Dio viene accolta con le sue, diciamo, mi viene da dire imperfezioni, no? Con i suoi aspetti che per noi sono incomprensibili, noi non ci possiamo spiegare perché dentro un libro come la Bibbia, che noi riconosciamo essere parola di Dio, ci siano delle cose così terribili. Quando Israele entra nella terra c'è scritto sterminali tutti, ammazzali tutti, uccidi i bambini, c'è scritto così, no? E rimaniamo, ok? Quindi nella tradizione, pur percependo la difficoltà psicologica a pregare questi testi, cioè una roba ovvia, mai erano stati, diciamo, eliminati, no? Però certamente la questione, quindi il discorso di Dio duplice diciamo che è anche nell'Antico Testamento, noi diciamo l'Antico Testamento e dentro c'è un mondo veramente molto variegato e quindi bisognerebbe un po' frequentarlo, approfondirlo, si vede che l'identità di Dio, diciamo globale, è misericordiosa, no? Però i rabbini dicono che Dio ha due troni, ha il trono della misericordia e quello della giustizia. Ci sono delle situazioni in cui si alza da un trono e si siede nell'altro, no? Quindi questo fastidio che noi proviamo, no? Per questi atteggiamenti, ci dobbiamo ricordare che a monte hanno delle situazioni di gravissima ingiustizia, dove il misero, l'orfano, la vedova, che sono proprio, diciamo, il simbolo, no? sono pesantemente calpestati. Quindi questa violenza verbale viene riservata alle situazioni di profonda ingiustizia. Questo biblista Venin, belga, che ha lavorato molto sui salmi, ha scritto dei bei libri sui salmi, praticamente dice, invece di fare violenza, il salmista, quella violenza, la dice come parola. Questo è già un fatto. Io ti vorrei accoltellare, perché mi hai proprio, quello che hai fatto è imperdonabile, non a me. Cioè, hai fatto una roba imperdonabile, hai calpestato persone fragili. Invece di mandarti della gente che ti accoltelli, io che vivo davanti a Dio, tutta la mia esperienza, io la pongo davanti a Dio, io questa mia ira la trasformo in parola che dico a lui, cioè non a quello là, no, la dico a Dio e gliela dico sul serio, questo merita, io non lo faccio, però fallo tu, basta, la violenza è finita. Come si fa a pregarli sti salmi? Beh, anche nella tradizione c'era sempre scritto che potevano essere sostituiti, perché, voglio dire, anche la serenità nella preghiera ha la sua importanza, no? Quindi l'idea non era quella di imporli, ma quella di metterli mettendo una possibile alternativa. C'è chi dice... sì, ma noi nel cristianesimo questi sentimenti ormai non ci sono più. Gesù ha detto che bisogna amare i nemici, no? Ecco. Allora leggo una proposta di Severino Dianic, che è un teologo fantastico, che dice: quando incontri che i figli devono essere sfracellati sulla roccia, tu eleva il tuo pensiero a Gesù e pensa che lui ha detto che bisogna amare anche i nemici, che insomma quella cosa lì, ma sì, non è proprio vera, no? Scusate, banalizzo, no? Mi lascia un po' questa soluzione, mi lascia un po', perché non si fa carico della grave sofferenza che quel testo dice e che tutti ci hanno detto, no? Se il salmo soffre, tu soffri, se piange, piangi. Se poi leggerete, adesso sono sicura che vi verrà la curiosità di andare a leggere i salmi, se voi leggete i salmi sono pieni di nemici, bestie, i malvagi, sono dappertutto. È un mondo cattivissimo, perché si focalizzano sul grido di chi soffre. Non è che al giorno d'oggi questo tema sia molto, cioè non è mai un tema, diciamo, gradevole, no? Denunciare l'ingiustizia e la violenza, ma nel nostro tempo mi sembra che sia particolarmente un tema totalmente cancellato, no? Quindi questo nostro disagio vero, diciamo, ci aiuta a comprendere che quella rudezza verbale ha dietro delle situazioni di gravissima ingiustizia, sofferenza, mancanza di dignità per gli esseri umani. Dietro c'è quello. Questo non ci condurrà a pregarli con piacere, no? Perché comunque quelle frasi sono tremende, no? Però a comprendere magari come mai. Un'ulteriore cosa, noi sappiamo che questo libro è ispirato da Dio. A un certo punto hanno fatto la cernita, hanno esaminato tutti i libri che circolavano, i testi che circolavano, e hanno stabilito quello che si chiama il canone delle scritture, cioè i libri che fanno parte della scrittura. Ispirati da Dio, questa teoria è stata messa a fuoco nei primi decenni del Novecento. Non è come per il Corano, che Dio detta e Maometto scrive. Su un libro così non si può fare nessuna analisi testuale, è tutto vietato, perché quella è parola uscita direttamente dalla bocca di Dio, non l'ha presa solo così. In realtà poi ovviamente viene interpretata, perché è impossibile non interpretarla, ma l'interpretazione del testo, lo studio del testo non è legittimo. Invece la teoria qui dell'ispirazione dice praticamente che Dio con il suo spirito ha ispirato gli autori. Pensate qui dentro che pletora, no, di autori c'è, in un solo libro, testi giunti, messi insieme, scritti da persone diverse, in epoche diverse, no? Ecco, che hanno scritto come veri autori umani. Io un'altra risposta che mi do a quella osservazione è che soprattutto nei Salmi, ma anche moltissimo nell'Antico Testamento, la parola di Dio si è servita di tutte le forme espressive, di tutti i sentimenti, di tutta la realtà della vita umana, e prendendo anche delle forme linguistiche che noi riterremmo inadeguate alla scrittura. Cioè, per noi la scrittura deve essere una roba presentabile, così, educata, diciamo, no? Ecco. E purtroppo il grido, quello lì, quello dell'ingiustizia, quando una persona soffre molto, vi sarà capitato, e a un certo punto proprio esce il grido, raramente quella protesta è educata, anzi spesso va sopra le righe, no? Assume delle forme anche veramente molto faticose, no? Perché? Perché dietro c'è una sofferenza grande che non si incanala con garbo, ha bisogno di essere, scusate, vomitata, no? Ecco. Quindi dietro a questi terribili testi e anche ad altre parti della Bibbia vedete che c'è una questione molto complessa che ha a che fare con la realtà della Bibbia e con la realtà dei Salmi moltissimo, perché nei Salmi questo aspetto per noi particolarmente, diciamo, difficile, ecco. Bisogna pregarli, dicono, no, questi, ma bisogna proprio pregarli? Ma no, anche no. Però il fatto che vengano tolti è un'operazione un po', diciamo, un po' ambigua, è come se io nel Vangelo, farlo omelia, a un certo punto c'è una frase che, no, questa è un po' troppo radicale qua Gesù, togliamolo, no? Oppure domenica mattina dico, ma senti, stamattina mi piacerebbe sentire la storia di Mosè, vabbè, nel lezionario c'è un altro testo, non importa, faccio io, no? Capite? Cioè noi la parola di Dio comunque la riceviamo dalla tradizione della Chiesa e da Dio, e questo ha un certo aspetto di indisponibilità ai nostri sentimenti, a quello che stiamo attraversando, no? A quello che ci piace, non ci piace. È una garanzia anche di cattolicità questa, cioè tutti i cristiani pregano sugli stessi testi, attraverseranno sicuramente situazioni diverse. Io penso che in questo momento gli ucraini non abbiano voglia di lodare, certamente no, e diranno altre cose. Noi magari stamattina, ah che bello, ah Signore, come sono contenta, no? Ecco, cioè nella parola di Dio non sempre c'è la corrispondenza con quello che noi viviamo, con quello che, di cui in un certo momento sentiamo la necessità. La parola di Dio ci spiazza, spesso ci spiazza. E quindi, diciamo, queste sono alcune delle osservazioni che sono state fatte per cercare di un po' di giustificare questo problema molto difficile. Grazie. Siccome me l'aspettavo questa domanda, sì, perché è molto, è una cosa che provoca molto tormento quando uno legge quei testi, comunque, no? Leggere questa violenza. Allora mi sono un po' cercato qualcosetta per cercare un po' di così, capire qualcosa. Si potrebbe dire, ma più o meno, credo almeno per quello che capisco, quello che mi sembra di essere, quello che dicevi, che Dio ci permette, cioè non è, quando io dico, non è Dio che parla, io che parlo, no? Cioè è l'uomo che sta parlando, che Dio ci permette, non ha paura di ascoltare anche le nostre cose più cattive, perché sono, sì, anche cattive, saranno anche dettate dalla rabbia, sì, eccetera, sì, però possono essere anche cattive. Un po' come noi con un bambino molto arrabbiato, gli diciamo, sappiamo che gli fa bene buttarla fuori, non tenerla dentro questa rabbia, ma buttarla fuori e poi verrà rielaborata e gliela restituiamo in un altro modo. Sì. Gesù ci aiuta a restituirla in un altro modo, sì, però ci permette di dirla. E sì, quindi, i due lati. Quando leggo questi salmi, perché ho la, sì, ormai da anni, tutte le, noi ne leggiamo uno al mattino, non solo per, certo, volta, perché anche perché se ne leggo più di uno, già così... È faticoso. Ma, però appunto, quando arrivo a questi qui imprecatori, oppure altri che hanno comunque delle parti così, però cerco di... mettermi un po' in questo, vabbè, noi in certi momenti possiamo anche dire, fra l'altro sono appunto, sono parole, non sono uno che va con la mazzata, ma lo dice quantomeno, è già una roba. E comunque purtroppo dal nostro cuore, vabbè, chi è più fortunato, magari che ha avuto una vita più felice, più, magari non gli vengono proprio quelle, ma c'è gente che ha vissuto delle cose talmente terribili che gli vengono come, e Dio le accetta anche queste cose qua. Sì, sì, sia da lui, sia lui che accetta e sia la persona che si permette di gridare. Anche quello, la preghiera davanti a Dio può assumere anche delle forme sconvenienti se uno si mette in verità davanti a Dio. Anche questo per noi è un insegnamento, che la preghiera non necessariamente è educata. Cioè la preghiera attinge dal vissuto. Io penso che questo sia forse il più grande insegnamento che ci danno i salmi. E siccome io sono abituata a vivere davanti a Dio, ho detto una cosa che sembra semplice, ma che ha dietro tutto il cammino del discepolo, eccolo qua, no? Cioè io sono abituata a mettere tutto davanti a Dio. L'esperienza di Israele è quella di un popolo che vive alla luce di Dio. Questa è la sua unicità, no? Siccome io vivo davanti a Dio, questa cosa qua, che è proprio sconveniente, la dico davanti a Lui. Però secondo me il problema è proprio quale Dio. Perché dipende da cosa io penso di Dio. Quindi la mia difficoltà, quella che ho già detto prima, è proprio quella della concezione di Dio. Cioè io credo che Gesù sia venuto a rivelare un Dio nel quale io credo, cerco di credere, che comunque non è proprio il Dio in cui credevano gli ebrei. Senta, ma Dio poi, quando questo gli dice accoltellalo, ammazzali tutti, Dio lo fa. Ma Dio comunque, no, sia il Dio di Gesù e ha certe caratteristiche. Va bene, ecco. Bene, ma è un altro discorso. Ogni tanto traspare, certo, dal Dio dell'Antico Testamento, traspare un Dio un po' diverso, ecco, tutto va lì, bene. La mia difficoltà è un po' quella. C'era una vignetta... Non è tanto sul comportamento dell'uomo, perché l'uomo, sì, so, sì, benissimo, sì, sì, certo, sono proprio convinta, certo, che dentro ha tutto, sì, la cattiveria e il male possibile, E quindi quando lo esprime, lo esprimeva 10.000 anni fa, ma lo esprime ancora oggi. Sì, sì, ma abbiamo, diciamo, condividiamo questa. C'era una vignetta anni fa, di un, non mi ricordo, forse una conferenza, no? In cui c'era uno che diceva: ma non ci posso credere che Dio era ebreo, no? Perché questa tendenza a separare è stata anche una forte radice dell'antigiudaismo cristiano. Questa idea, no? Che il Dio degli ebrei, oh, no, quello non è il nostro, no? Gesù. Dimentica che in realtà Gesù, diciamo, nasce in quel contesto, i Vangeli sono stati scritti in quel contesto, i discepoli di Gesù fino a un certo punto erano tutti giudei, e quindi diciamo che di per sé questi due mondi sono molto più intrecciati di quello che la, diciamo così, la nostra esperienza e la nostra conoscenza li percepisce, ma certamente quella difficoltà lì, diciamo, è innegabile, anche insomma una fatica. Vi posso permettere di dire una cosa in questo senso e poi con una domanda? Per figura di Maria e Magnificat, a me sembra che il Magnificat sia proprio una sintesi tra l'altro di una ragazza giovanissima che però frequentava talmente la Bibbia, cioè aveva dentro di sé, nella sua educazione, in tutto quello che c'era e così via, talmente radicata la Torah, i libri profetici e i salmi, che riesce a fare questo, come poter dire, questo inno, facendo un po' una sintesi di tutto quello che effettivamente è il grido del popolo rispetto a anche la visione di Dio. Sei riuscita a farlo lei, magari diciamo che no, questa è una cosa di questo genere, però questa visione di Maria è vera, nel senso che effettivamente è proprio così, magnifica che proprio questo, come far dire, no? Questo insieme di cose, perché lì dentro mi sembra, quello che diceva prima, una sintesi di quel volto di Dio che Gesù poi è venuto a darci, che non vuol dire che tutti gli altri volti non ci siano, scusate, apro una parentesi, diciamo, come poter dire, quotidiana, ma le cose che stanno... posso dirlo, spero, le cose che stanno dicendo Salvini, la Meloni di Dio ci piacciono tanto. Adesso vogliono imporre il crocifisso in tutte le scuole. Hanno detto il nome di Dio rispetto ai poveri cristi che stanno morendo, che piacciono così tanto, eppure ci sono. E noi ci scontriamo con questa cosa qua. E la prima cosa ci viene da dire, Dio scusami, ma perché non intervieni, che fai? Allora, è proprio quello che ha percorso il non poter dire, il... si può dire, il popolo di Israele, il popolo ebreo, e che è quello che stiamo vivendo in continuazione della vita vive. Questo mi sembra che possa essere, mi sembra di non rivelare il volto di Dio, però il volto di Dio è quello che poi in fondo ci rivela Maria nel Magnificat. È una cosa che può... Il Magnificat, questi inni, Benedictus Magnificat, Nunc Dimittis, probabilmente... sono nati, diciamo, in modo indipendente, no? Forse usati nella liturgia, e poi quando sono stati scritti i Vangeli sono stati, quindi probabilmente non li ha scritti Luca. Se lei guarda il Magnificat, è una sintesi del Dio dell'Antico Testamento, del resto lei conosceva quello, no? Discesi i potenti dai troni, esalto gli umili, siamo poi sempre lì alla fine, no? Che... Quindi certamente quello che cercavo di dire, no? Che la parola di Dio, frequentata molto, modella il nostro linguaggio. Se uno frequenta tanto la Bibbia, la legge tanto, a un certo punto quelle parole lì un po' diventano le sue, no? E lei sicuramente ha fatto così. Anche i salmi servono a questo, nella loro fatica. Secondo, alla fine il nodo, secondo me, è quello della giustizia. Cioè, questa roba qua è difficile prendersi cura di quelli calpestati. La logica della Bibbia, sin dall'origine, la logica di Dio nella Bibbia è sempre incomprensibile. Ci sono 7 fratelli, bisogna scegliere il re, chi prende? Quello lì, giovanino, che è andato con le pecore, ma vederlo così non mi sembra mica tanto adatto, no? No, ungilo, i secondogeniti, cioè la predilezione per chi non ha i mezzi per difendersi. Dietro alle nostre fatiche sul Dio dell'Antico Testamento, secondo me c'è molto questo, perché quelle fatiche lì, cioè quegli atteggiamenti di Dio, lo dico di nuovo, hanno sempre dietro un'ingiustizia, sempre. Quindi certamente il nodo della giustizia, penso in ogni tempo e non solo nell'ambito religioso, è un nodo, perché comunque prendersi cura dei deboli, diciamo, da poca da poco paga poco, no? nel mondo. Quindi fare una domanda poi. Sì. E quindi ci posso? Un po' la periferia. Sì. Allora, prima di magari interromperci verso l'11, se per te va bene, per una pausa, vorrei che tu ci dicessi questi salmi che parlano all'uomo di oggi, quanti anni hanno? Allora, si distendono, tradizionalmente vengono attribuiti a Davide. Vale a dire? Circa 1000 avanti Cristo. Però i testi si distendono nella storia di Israele, quindi ci sono testi molto più antichi e testi più recenti. Ci sono delle sistemazioni in tutti i libri della Bibbia che sono state fatte dopo l'esilio, no? Che è stata un'esperienza incredibilmente traumatica. Però anche il testo di un singolo salmo a volte mostra, come anche succede nel Nuovo Testamento, dei pezzi che gli studiosi riconoscono che risalgono a epoche diverse, no? Quindi a volte anche leggendo il testo noi abbiamo l'impressione che ci sia qualcosa che non, diciamo, che non torna, no? Nell'espressione linguistica, e quindi diciamo, alcuni sono testi, poi quando vengono messi per iscritto a volte sono tradizioni che già venivano utilizzate per la preghiera, quindi veramente si radicano nell'epoca più antica della storia di Israele, ecco. Fino a, diciamo, che potremmo prendere delle espressioni tipo i salmi fino ai nostri giorni, cioè questa esperienza del salmo ha attraversato le generazioni, no? E a partire da questi non c'è una chiusura, no? Ogni generazione è chiamata poi ad appropriarsi dei salmi. Io volevo portare una piccola esperienza. Già diceva Margherita che noi da parecchi anni, sostanzialmente da quando siamo in pensione, non abbiamo più il problema del lavoro, per andare al mattino a lavorare, leggiamo un salmo. C'è stato un periodo che cercavamo anche dei commenti. Allora, abbiamo immediatamente scartato i commenti mattoneschi alla Ravasi, o perché è troppo. Abbiamo trovato due strumenti, secondo noi, abbastanza utili. Uno è stato fatto, i salmi sono stati tradotti da Turoldo. Eccolo qua. In modo... Ecco, brava. Ecco, questo secondo... Adesso è stato ripubblicato. Sì. Secondo me, Adriana, questo sì. Potrebbe risolvere parte dei tuoi consiglio. Problemi. Perché c'è una piccola introduzione di Ravasi. L'introduzione di Ravasi, il salmo è tradotto in modo poetico da Turoldo, poi c'è una piccola preghiera o all'inizio o alla fine che con la quale tu entri in sintonia. No? Quindi questo qui è uno strumento interessante. Un altro interessante che abbiamo riscontrato è un commento, ma una paginetta fatta da Donatella Scaiola, che è una biblista che insegna a Roma, no? Sì. Quello dello zaino, quello lì? Sì, Edizioni Emi, mi sembra, sì, no? Sì, sì. Quando è venuta Novara, io sono andato a ringraziare, ho detto grazie per questo libro, perché è utile, insomma, è utile. Sì. Ecco, quindi la lettura di queste introduzioni ad ogni salmo credo che occupi non più di 3 minuti, 3 o 4 minuti. Questo potrebbe essere uno strumento utile anche per far gustare, no? Sì, sì. Poi questo qui di bello non lo conosco, se ci dici. La traduzione di Turoldo è stupenda. È veramente stupenda. Monsignor Ravasi, vabbè, si è dedicato ai salmi per tantissimo tempo, il suo commentario è veramente molto interessante, però è vero che la difficoltà nel linguaggio si giova di un piccolo aiuto, diciamo, no? Nell'interpretazione, piccolo, però piccolo, perché poi bisogna soffermarsi sul testo. Allora, cos'è che ho detto io? Alberto Mello è un monaco di Bose, è stato tanti anni a Gerusalemme, ha insegnato allo Studium, ha scritto diversi di libri sui salmi. Questo è l'ultimo, che è delle edizioni Terra Santa, un bel libro, vabbè, questo è già più corposo come contenuti. E, se no c'è questo di Venin, molto bello, Entrare nei salmi. Questo biblista belga, molto semplice, molto bello. Adesso anche su internet si trovano tante cose, naturalmente, ma secondo me questo qui, io questo lo consiglio sempre, è veramente uno strumento bellissimo, anche per leggere i salmi con questo testo, molto bello, molto bello. Sì, io mi trovo molto bene con quelli, ormai li ho conosciuto. Sì, certo. Adesso la liturgia delle ore, dunque, la liturgia delle ore è in riforma, no? Perché vi dicevo che ogni tot anni, eccetera. Perché allora nel lezionario ci sono i salmi secondo la versione CEI del 2008, invece nella liturgia delle ore ci sono i salmi secondo la versione precedente, che credo sia quella del 72, non 74. Adesso c'è la liturgia delle ore praticamente finita. E quindi anche nella liturgia delle ore ci saranno i salmi nella nuova versione, però c'è un problema, che quando un salmo deve essere recitato in modo corale, la lingua deve anche scorrere, no? Deve avere un ritmo, e non sempre questo si accompagna con un'accurata traduzione dal testo originale, no? E quindi li hanno fatti sperimentare, insomma, sarà un cambiamento, perché, come dice la signora, a un certo punto poi i testi li abbiamo nelle orecchie, no? E diventano familiari anche.